Il diario della principessa, Eugenia von der Leyen. I miei colloqui con le povere anime. Quando morirò? 7 febbraio. ASCH. Effettivamente Enrico venne di notte. Non dice niente. Ma penso che ci stavano altre anime in camera mia. Si sentiva continuamente mormorare intorno a me, cosa poco simpatica. 8 febbraio. Enrico rimase a lungo. Si presenta bene. Io, verrai ancora spesso? Lui, devi darmi ancora. Io, che cosa? Lui, mortificazione. Devo riconoscere che in quest'ultimo tempo ho lasciato andare un po', pensando che ormai gli andava meglio. Appena partito ho visto un'ombra che continua ad andare in su e in giù e ho anche udito diversi rumori. 9 febbraio. Enrico venne due volte di giorno e più a lungo durante la notte. Io, puoi dirmi quando morirò? Lui, tienti preparata. Io, allora presto. Lui, quando tu matura. Io, mi puoi indicare le mie mancanze? Lui, no. Mentre lui parlava con me, ci fu improvvisamente un rumore e un bisbiglio in camera, che finora non avevo sentito. Poi sparì tutto. Che cosa succederà? 11 febbraio. Enrico improvvisamente in piedi accanto a me durante le mie preghiere del mattino. Gli dissi, vieni qua che voglio darti l'acqua santa. Sei contento? Lui, sì. Che vuoi ancora? Lui, la tua mano. Io gliela diedi, lui prese anche l'altra e restammo così. Mi sembrava che se ne andassero via da me tutte le mie forze come uno sciogliersi della mia volontà. Allora dissi, per favore lasciami andare. Lui, tieni duro, poi sono libero. Egli mi teneva le mani strette fisse più di una morsa. Finalmente dissi, lasciami libera, mollami, altrimenti non faccio a tempo ad andare alla comunione. È già tardi. Allora mi lasciò ed io vidi per la prima volta un sorriso sul suo volto. Egli disse, grazie, sono nella luce. Era sparito.